Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Malattie reumatiche colpiscono oltre 5 milioni di italiani, ma nonostante la loro grande diffusione sono ancora sottovalutate e sottodiagnosticate. I dolori e le difficoltà di movimento sono spesso attribuite all'invecchiamento o alle condizioni climatiche. In realtà sono malattie che, oltre a incidere pesantemente sulla qualità della vita, possono compromettere addirittura la funzione di organi vitali come cuore e cervello. A Obiettivo Salute il professor Mauro Galeazzi, presidente nazionale della SIR, Società Italiana di Reumatologia. Sì, è vero, ci sono più di 5 milioni di malati affetti da patologie reumatiche. Però c'è da specificare che almeno 800.000 di questi malati sono a rischio disabilità, invalidità e danno permanente delle strutture dell'apparato locomotore, ma non solo, perché tra questi ci sono malattie sistemiche che colpiscono i giovani e non gli anziani e che portano qualche volta anche a morte. E quindi stiamo parlando di malattie veramente importanti e veramente gravi. Sulle pagine del nostro programma i segnali da non sottovalutare. Parte oggi in collaborazione con Epaci Onlus e con la supervisione scientifica della Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia, Epatite C0, una webserie in 5 episodi per creare consapevolezza dei rischi legati all'HCV, promuovere la prevenzione e informare sulle opportunità terapeutiche ed evidenziare l'importanza di assicurare per ogni paziente la terapia più appropriata. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.epatitec0.it. E oggi in diretta Facebook con me il maestro Roberto Cacciapaglia, autore del brano che state ascoltando. Con lui faremo un viaggio nel mondo della musica. Perché? Perché il ritmo della musica influenza quello del cuore, il ritmo del cuore ispira la musica. E allora non ci resta che farci ispirare. Seguiteci. Intanto per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta video col maestro Cacciapaglia. Un saluto da Nicoletta.